Capitolo ottavo. Come la Madre Nostra voglia rivivere nei suoi figli. Hai tu mai pensato che non un particolare della tua vita deve essere estraneo alla madre tua? Tu sei suo figlio come Gesù, o piuttosto sei una parte di Gesù, un altro lui. Se vuoi, puoi far rivivere a tua madre tutte le sensazioni provate da lei durante gli anni della vita terrena di Gesù. Disponi dunque la tua vita praticamente con Maria. Persuaditi di essere un altro Gesù e vivi con la madre tua come Gesù ha vissuto con essa. O buona madre, il mio primo pensiero al mattino sarà per te. Quale intima gioia ti procurava il tuo caro Gesù quando la mattina, dopo il suo risveglio, accorreva verso di te per abbracciarti. Quando nell'alzarmi bacio la tua cara immagine, mi sembra di rinnovare quella deliziosa commozione che tante volte hai sentito, e so che risponderai al mio attestato di tenerezza con un moto di amore materno, come quando stringevi Gesù nelle tue braccia. Quanto è dolce essere tuo figlio e cominciare con te le occupazioni della giornata. Non ti allontanare da Maria, fai insieme a lei la tua preghiera. La sua meditazione consisteva nel considerare Gesù vivente sotto ai suoi occhi. Quanti atti di amore, di adorazione e di ammirazione scorgavano dal suo cuore durante quella tacita preghiera. Raccogli preziosamente tali atti e offrili di nuovo a Gesù per suo tramite. Così per merito tuo Maria rivivrà quelle lunghe ore, quei lunghi anni di vita passati in compagnia di Gesù. Vedi come contemplava il suo figliuolo amandolo, come gli parlava e l'ascoltava. Anche tu farai così nella tua preghiera. Ti approprierai tutti i suoi sentimenti. Parlerai a Gesù, l'ascolterai e l'amerai con il cuore di sua madre. Restale unito, soprattutto durante la Santa Messa. Oh, come i sentimenti devoti devono affollarsi allora nel tuo cuore. Sei con lei ai piedi della croce. Essa assiste di nuovo in te al sacrificio del suo figliuolo. Rivive in te quegli ineffabili dolori ed è felice di offrire da capo in te al Padre Celeste la vita del Figlio suo per salvare i peccatori. Ma puoi variare a tuo talento gli atti e i sentimenti mentre si celebra questo augusto sacrificio della croce. La Santa Messa è tutta la vita di Gesù che si rinnova sotto al tuo sguardo. E se sei sacerdote, mediante il tuo ministero. O Gesù, io mi compiaccio di considerarti nel tempo della messa come un bambinello che riposa nelle mie braccia, sopra la mia mano, dopo che ti ho fatto nascere per mezzo della consacrazione. Come tu sei proprio mio allora, unicamente mio, e come mi ami con amore silenzioso ma penetrante. Ricordati sempre allora, Gesù, che sei coricato nel tuo umile presepio o portato da Maria, perché all'altare non sono più io. È la Vergine Purissima, di cui sono il prolungamento sulla terra, la quale ti tocca, ti porta, ti abbraccia, ti adora e ti ama per mezzo mio. Lasciati ravvolgere nelle fasce dei miei atti di amore, di umiltà, di abbandono e di adorazione e rinnova nella madre tua tutti i sentimenti che provava rendendoti questi materni servizi. Preparati con cura alla Santa Comunione. La Madonna in quel momento desidera rivivere uno dei più bei momenti della sua vita, quello in cui Gesù scese nel suo seno virginale. Quale atto di amore, o Gesù, ti accolsi allora da parte di quella Vergine benedetta nella quale venivi ad abitare. Sappi che nel momento della comunione tua madre ripete, servendosi del mio cuore, il medesimo atto di amore. Degnati anche tu di rinnovare in essa, in quell'istante, il sentimento ineffabile che la pervase tutta quando per la prima volta si sentì in contatto materno con il suo divin figliuolo. Talvolta mi sono rattristato pensando che dopo la Santa Comunione Gesù doveva provare spesso noia e disgusto nel mio gelido cuore. Ma ora non mi affliggerò più. Ho abbandonato alla Divina Madre l'intero dominio dell'anima mia. Essa riceverà in me Gesù come quando lo riceve la prima volta nel suo seno. E quando sarò distratto per le divagazioni o le preoccupazioni involontarie, Gesù non si accorgerà della mia distrazione. Chi non vorrebbe porgere l'orecchio a quello che la giovane Vergine raccontava a Gesù mentre lo portava nel suo seno? Chi non vorrebbe capire il piacere infinito che provava il bambino divino nel sentirsi amato così e nell'essere rinchiuso nelle viscere materne di questa Vergine tanto pura? Riposati dunque così nel mio cuore, o Gesù, dopo la Santa Comunione. Prendi in me le tue delizie e amami, perché il medesimo seno materno per tramite mio ti riceve ora, ti ospita e ti porta con amore. E le dolorose impressioni, o Gesù, provate sulla via dell'Egitto, quando portato sulle braccia di tua madre e stretto al suo seno, sentivi i palpiti precipitati del suo cuore angosciato, tu le ricordi. Rammenta dunque che la buona madre porta a me pure, perché sono un altro te, e finché sarò errabondo qua giù, attraverso il deserto dell'esilio, essa è in pena, perché sa che un nemico potente vuole strapparmi al suo amplesso. Quando mi vedrai in pericolo e prossimo ad essere raggiunto dal persecutore, ricordati, Gesù, dell'angoscia della nostra madre comune. Ricordati che se perisco, perisci tu stesso in me. Ma no, non temo nulla, né pericoli, né le tentazioni, né le prove della giornata riposerò come un bimbo la testa sul cuore della madre mia, come facesti tu fuggendo in Egitto. E la mia sicurezza su quel seno benedetto ricorderà alla Madonna il sonno tranquillo del suo Gesù. Così, mediante la mia fiducia e il mio abbandono, essa ti amerà col medesimo amore con cui ti ricopriva nella via dell'esilio. E tu, Gesù, godrai in silenzio per il mio intrepido sonno nelle braccia di Maria, intrepido nonostante i pericoli e le fatiche del mio viaggio verso l'eternità. Ma bisogna santificare tutto, stando in contatto con la Madonna, non solamente le pene, ma anche le gioie. Chi dirà le delizie del suo cuore materno, gustate quando giunse il momento della nascita del suo Emanuele, quando lo prese nelle braccia per la prima volta, lo strinse al cuore, lo nutrì con il suo latte, quando vide le sue manine stese verso di lei per abbracciarla. Oh, come Gesù amò allora la madre sua e le espresse il suo amore in mille incantevoli modi. Egli che prodiga alle anime tenerezze così meravigliose, Che cosa non dove essere per colei che era esclusivamente sua, la sua colomba, la sua diletta? Buona madre, Gesù col mio amore vuol rinnovare nel tuo cuore tutte queste gioie. Perciò non voglio mettere limiti al mio affetto per te, poiché non ve ne ha messi Gesù. Voglio inventare, come lui, mille mezzi per provarti il mio amore, moltiplicare per piacerti i miei piccoli sacrifici e le rinunzie a me stesso. Soprattutto voglio darti la consolazione di potermi amare come hai amato Gesù. Voglio essere tanto perfettamente simile a lui che il tuo occhio materno si ingannerà e non potrà più distinguermi da Gesù. O madre mia, amami quanto il tuo cuore materno è capace di amare, quanto hai voluto amare Gesù. Esaurisci amandomi tutte le sorgenti di tenerezza di cui Dio ti ha arricchita. Contenta pienamente il tuo cuore, ricolmandomi di grazie e di materne carezze. Non ti stancare di ripetermi la tua tenerezza e la tua sollecitudine per me. Come Gesù stimolava incessantemente il tuo amore con mille delicate premure, così voglio sempre risvegliare nel tuo cuore maggiore tenerezza per l'anima mia, con incessanti atti di amore, di docilità, di umiltà e con innumerevoli Ave Maria che commuoveranno deliziosamente l'anima tua. Non sono io, buona madre, ad amarti così. È Gesù vivente in me. Vivi sulla terra con il tuo caro figliuolo, amandomi e accettando benevolmente il mio amore. Vedi, figlio di Maria, a quali profondità ti è permesso vivere nell'anima della madre tua. Se le sei fedele, essa ti insegnerà mille altre industrie, ti rivelerà segreti che non dirà ad altri che a te. Non solamente permetterai a tua madre di rivivere in te le sue gioie e le sue pene, ma le fornirai l'occasione di lavorare ancora per Gesù come faceva altra volta. Ricordati che tutte le buone azioni fatte in stato di grazia sono gradite a Dio e proficue alle anime. Se esamini la tua vita, vedrai che dalla mattina alla sera tu lavori per gli altri, per le anime, dunque per Gesù. È appunto quello che Maria ha fatto sulla terra, le sue umili incombenze di sposa e di madre nella famigliola di Nazareth. Erano tutte dirette al suo divin figliuolo. Proprio queste umili occupazioni, delle quali il mondo non ha saputo nulla, hanno incantato il Verbo di Dio e hanno procurato alla Santissima Vergine tanta gloria in paradiso. Ora che vive in Dio, essa cerca anime di buona volontà che le permettano di continuare la sua piccola vita umile e nascosta sulla terra. Vuol dunque prendere ad imprestito tutte le tue azioni e offrirle di nuovo a Gesù. Capisci tu qual piacere puoi fare alla madre tua cedendo tutto il tuo lavoro, quei mille non nulla quotidiani che l'obbedienza, la necessità o la benevolenza comandano? E come allora quel modesto e monotono uso del tempo cambia aspetto. Non sei più tu a lavorare, ma essa nella casa di Nazareth offre per mezzo tuo i tuoi servizi a Gesù e lo attira con le sue umili occupazioni. E poi, se vorrai ricrearti o riposarti sotto il suo sguardo, essa prenderà ancora su di sé i tuoi momenti di sollievo per offrirli a Gesù e ricordargli gli istanti dolcissimi che passarono insieme al focolare di famiglia dopo l'aspro lavoro della giornata. Infine, prima di addormentarti, chiedi la benedizione a tua madre e baciale la mano, come faceva Gesù, il modello dei figli, e la Madonna veglierà sul tuo sonno come vegliava altra volta sulla culla del bambino divino. Non ti addormentare senza esserti dato nuovamente corpo e anima a lei, senza aver chiesto per tramite suo perdono a Gesù delle tue colpe. Oh, come vorrei insegnarti ad essere come un bambino con lei, ad aspettar tutto dalla sua bontà materna, a non pensare, amare o far nulla senza di lei. Poiché Gesù si sostituisce a te, vuole che sua madre ti tratti come ha trattato lui. Sii dunque alla tua volta per Maria tutto quello che Gesù è stato per essa. Sii il punto di congiunzione tra questi due cuori. Conserva in silenzio il privilegio di essere un dolce vincolo tra Gesù e Maria, il canale per il quale essi fanno rifluire l'uno verso l'altro il loro amore reciproco.